e mi fermo un po' con te, ti andrebbe di parlare insieme a me. È passato tanto tempo ormai che non ci siamo visti più. Vedo una lacrima che scende dai tuoi occhi. Non sei felice, forse non è quello che aspettavi. Cosa che ti dà pena, amore mio? Io t'amo. Mai nessuno potrà portarmi via l'amore che ho per te. Ti ho detto che bene andava, non lo credevo, sai, ma non importa di quel che è stato ora, io voglio averti accanto a me. Vedo una lacrima che scende dai tuoi occhi, non sei felice, forse non è quello che aspettavi, cosa che ti dà pena. L'amore che ho per te, portarmi via l'amore che ho per te, portarmi via l'amore che ho per te.